Nella Repubblica Dominicana. Due giorni fa era stata accolta la richiesta di arresto proprio per pericolo di fuga all'estero. Tra poco ospiteremo il suo avvocato. La difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto l'agibilità politica per l'ex premier. Il procuratore generale, l'affidamento ai servizi sociali sarà revocato se diffamerà i giudici. Nuova asta positiva per i titoli di Stato, i BTP a tre anni collocati con un rendimento sotto l'1%, giornata negativa per le borse, Milano perde un punto percentuale. Muore una donna dopo l'interruzione di gravidanza con la RU486. La procura di Torino apre un'inchiesta, è stata disposta all'autopsia. Calcio Europa League, la semifinale della Juventus sarà contro il Benfica. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete potete commentarle come sempre al 349-238-6666 sulla nostra pagina Facebook oppure se volete scrivendomi su Twitter. Iniziamo dalla vicenda di Marcello Dell'Utri. Monica Ceravolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Come avete anticipato, l'ex senatore Marcello Dell'Utri adesso è stato dichiarato ufficialmente latitante. Gli investigatori che avevano il compito di condurlo in carcere non lo hanno infatti trovato in alcuna delle sue residenze abituali e non risponde alle utenze telefoniche intestate a suo nome. Il mandato di cattura è partito dalla Procura Generale di Palermo, che ha ravvisato il pericolo di fuga in vista della sentenza definitiva che è attesa per il prossimo martedì. Se infatti venisse confermata la sentenza di condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, per l'ex senatore sarebbe automaticamente la galera, da qui il sospetto fondato che potesse fuggire prima della sentenza. E c'è già un precedente: in occasione del pronunciamento della Corte di Cassazione 2 anni fa, Dell'Utri infatti risultava all'estero, si rifece vivo solo dopo che la Corte annullò la condanna e dispose un nuovo processo a suo carico. E non è un segreto per nessuno che Dell'Utri abbia tra l'altro acquistato una villa a Santo Domingo, dove già ha trasferito i suoi amati libri antichi e da dove non esiste l'estradizione per reati di mafia. A dare ulteriore credito e sospetti della Procura Generale c'è poi un altro fatto che è risultato decisivo. Si tratta di un'intercettazione ambientale registrata alcune settimane fa all'interno di un noto ristorante romano, un luogo molto famoso in città, frequentato da politici, attori e di tanto in tanto anche dal fratello di Dell'Utri, il suo gemello Alberto. Parlando con il titolare del locale, Alberto Dell'Utri discute di possibili vie di fuga dall'Italia. Il sospetto dunque che l'ex senatore avrebbe potuto lasciare il paese per evitare l'arresto adesso è evidentemente confermato. Grazie Monica Ceravolo, e come si diceva più avanti sentiremo l'avvocato di Dell'Utri, vedremo se ha qualcosa da dirci. Intanto il caso invece di Silvio Berlusconi. Non si conoscerà prima di martedì prossimo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sulle pene accessorie per Silvio Berlusconi dopo la condanna a 4 anni per frode fiscale nel processo sui diritti TV Mediaset. La sua agibilità politica sembra però più vicina dopo il parere del procuratore generale Antonio Lamanna, che nell'udienza di ieri si è detto favorevole all'affidamento del leader di Forza Italia ai servizi sociali. Niente arresti domiciliari dunque, ma se l'ex premier dovesse ancora diffamare le toghe, l'affidamento potrebbe essere revocato, ha avvertito il magistrato, che in aula ieri avrebbe mostrato anche un articolo di giornale nel quale l'ex cavaliere avrebbe parlato di mafia dei giudici in riferimento proprio alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Noi non siamo né angeli vendicatori né angeli custodi, ma siamo qui per far applicare la legge, avrebbe detto Lamanna. Nell'udienza di ieri la questione dell'agibilità politica di Berlusconi sarebbe stata sollevata anche dai suoi legali, che ai giudici avrebbero chiesto libertà di movimento per il loro assistito in funzione della campagna elettorale per le prossime europee. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro sulle vicende di Dell'Utri e di Berlusconi. Veniamo invece all'economia italiana, perché ci sono dei dati importanti. Un'asta di titoli di Stato che è arrivata questa mattina. Il Tesoro ha venduto 7,2 miliardi di BTP triennali e settennali sostanzialmente. I triennali ad un tasso dello 0,93% dall'1,12 di un mese fa. È un nuovo minimo storico. Facciamo dunque il punto anche sulla politica economica. Il debito pubblico scenderà, la crescita riprenderà quota, gli investitori torneranno a puntare sul nostro paese. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan presenta il DEF a Washington e dà mostre di ottimismo sul futuro dell'Italia. Siamo uno dei sistemi fiscali più sostenibili tra le economie avanzate, spiega l'ex capo economista e vice direttore generale dell'OCSE, sottolineando che il DEF trasmesso ieri dal governo alla Camera è una combinazione di misure strutturali sul mercato del lavoro e di misure fiscali che permettono di dare più soldi a famiglie e imprese, che quindi aumenteranno la crescita nel breve e medio termine. Ma intanto, se per il 2014 si escludono manovre aggiuntive, per il 2015 si profila invece un intervento per altri 4,9 miliardi di euro, lo 0,3 del PIL. Un piano di rientro, una manovra di consolidamento, così la definisce lo stesso documento, per avvicinarsi al pareggio strutturale di bilancio a valere sul 2015, un intervento che sarebbe interamente finanziato da riduzioni di spesa. Per quest'anno invece, come si diceva, niente manovra. Quanto alla crescita, il governo punta a una percentuale migliore dello 0,8 indicato prudenzialmente ed esclude che il principale stimolo all'economia, gli 80 euro in più in busta paga dal 27 maggio, possa essere annullato dall'aumento dell'imposizione sulla casa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Notizia di poco fa, il ministro dei trasporti Maurizio Lupi ha incontrato questa mattina l'amministratore delegato di Etihad, James Hogan. Si è trattato di un lungo incontro operativo, così si apprende dalle agenzie, e si andrebbe verso la proposta di Etihad con la lettera di intenti per l'Italia, che potrebbe arrivare già lunedì. Saluto Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Per parlare a questo punto di due scadenze che ci sono lunedì, la prima è questa, la proposta di Etihad per Alitalia, e la seconda poi è quella delle nomine, forse ancora più strategica per il governo Renzi. Iniziamo dall'Italia, Gianni, siamo alla stretta finale dunque. Ma è già un po' che si parla di una stretta finale, e gli incontri di questi giorni, l'arrivo dell'amministratore delegato di Etihad Hogan a Roma conferma l'intenzione di andare avanti. Ci sono ancora degli ostacoli, degli scogli, cioè Etihad ha posto delle condizioni piuttosto dure sia sugli esuberi, si parla di almeno 3.000 esuberi che dovrebbero essere proprio resi definitivi e non solo temporanei con cassa integrazione e contratti di solidarietà dentro l'Italia, e un sacrificio alle banche, 400 milioni di crediti verso l'Italia che dovrebbero essere o trasformati in capitale o comunque di fatto, diciamo, cancellati, e condizioni a cui però ancora non c'è stata una risposta. E anche l'incontro con Renzi di ieri a Palazzo Chigi, tra Hogan e Renzi, stamattina poi quello con Lupi, è servito a Etihad a porre di nuovo queste condizioni. Il governo sta cercando di dare, diciamo, delle assicurazioni che questi argomenti, questi problemi verranno affrontati, ma l'ultima parola poi spetta sia alla trattativa con i sindacati sia alle banche che finora si sono opposte. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, e vedremo come andrà a finire, Gianni, la vicenda delle nomine nelle società pubbliche, perché lunedì è un giorno importante, no? Lunedì doveva essere domenica, cogliendo il fatto che è festa, il governo dice che il termine è slitto a lunedì, quindi c'è un piccolo ritardo per depositare e pubblicare le liste dei candidati alle maggiori società pubbliche a partire dall'ENI, l'Enel, poi ci sarà la Finmeccanica e Terna, forse anche le Poste o ci sarà qualche giorno in più, ma si va verso un ricambio generalizzato degli amministratori delegati di queste società, in particolare l'ENI e l'Enel, che da 9 anni sono guidate da Scaroni, da Conti, dovrebbero uscire e arrivare dei nuovi amministratori delegati. Anche per le presidenze si parla di molte novità, tranne forse Finmeccanica, dove rimarrebbe Gianni De Gennaro, l'ex capo della polizia. Però la stretta finale richiede qualche giorno in più di quanto aveva previsto. Renzi aveva detto vedrete sabato 12, questa volta non riesce ad anticipare i tempi. Non ci riesce. E poi c'è anche il ricambio dei consigli di amministrazione, Gianni, che non è indifferente, sì, no? Tutti i consigli di amministrazione, cioè, vengono rinnovati. Solo per la parte di competenza del tesoro sono almeno 25 posti, quindi anche nei consigli ci sono sempre dei cambiamenti. È cambiato il governo, li aveva nominati Berlusconi questi consigli 3 anni fa, quindi ci saranno delle posizioni. Per esempio nel consiglio della Finmeccanica dovrebbe entrare l'ex ministro della difesa Di Paola, che sembrava un candidato alla presidenza, ma non la presidenza adesso c'è De Gennaro. Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Adesso noi ci spostiamo in Grecia, dove oggi arriva Angela Merkel. La visita del cancelliere tedesco Angela Merkel in un'Atene blindata da 6.000 poliziotti vuole sostenere il premier greco Antonis Samaras e il suo fragile governo di coalizione, in vista dell'importante doppio test elettorale di maggio, quando i greci si recheranno alle urne per le amministrative in due turni e le europee. Gli ultimi sondaggi danno la formazione della sinistra radicale Syriza, guidata da Alexis Tsipras, in leggero vantaggio su Neodemocrazia e il PASOK, i partiti pro-Europa. Un sorpasso della sinistra radicale di Syriza sarebbe un segnale politico inquietante per un paese dell'Eurozona che ha appena riguadagnato l'accesso ai mercati con un bond quinquennale. Il programma della Merkel ad Atene comincerà alle 15.15 con un incontro proprio con i giovani imprenditori greci che operano in settori innovativi, un settore dove Berlino è pronta a concedere finanziamenti per 100 miliardi di euro. Qual è l'obiettivo del viaggio? L'obiettivo è che i greci divengano un po' più rigorosi come i tedeschi e i tedeschi un po' più prodighi come i greci e si possa chiudere la crisi dell'Eurozona, là dove era proprio iniziata 4 anni fa, e chiudere definitivamente il capitolo della Lehman Brothers dell'Egeo. Vittorio Darolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è una notizia, anche questa, battuta da poco. Il GUP di Trani ha rinviato a giudizio 5 dirigenti e funzionari di American Express per truffa ed usura ai danni di cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani in relazione all'elargizione di prestiti realizzati con il rilascio di carte di credito del tipo revolving. Se ci saranno aggiornamenti su questa notizia, naturalmente ve li daremo. Ci spostiamo in Ucraina. Il premier ucraino Yatsenyuk è volato ad nel cuore della rivolta separatista dell'est ucraino, cercando di riconquistare una regione a rischio di essere attratta da Mosca. Il premier si è detto disposto a introdurre riforme costituzionali che rafforzino l'autonomia delle regioni, a garantire lo status di lingua ufficiale per il russo parlato a Donetsk più dell'ucraino. La Russia però vuole un vero federalismo, strada che Kiev teme porti alla disgregazione dell'Ucraina, con Mosca pronta a mettere le mani sull'est. Si teme che Putin voglia destabilizzare la situazione prima delle presidenziali del 25 maggio, fomentando le proteste separatiste e premendo sui confini con uno schieramento militare che preoccupa la NATO. Al riguardo, tra l'Alleanza Atlantica e Mosca è scoppiata per così dire una guerra delle fotografie. Mosca sostiene che le immagini diffuse dalla NATO per dimostrare l'addensamento di uomini e mezzi alla frontiera con l'Ucraina risalgano all'estate scorsa. La NATO ribatte annunciando altre foto che mostreranno in un confronto con immagini precedenti che la mobilitazione è iniziata invece in marzo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov allarga il raggio della crisi, avvertendo che i sentimenti antirussi accesi con la crisi ucraina rafforzano la crescita di razzismo e ultranazionalismi e la compiacenza verso manifestazioni neonaziste, mettendo a rischio la stabilità dell'Europa. Antonella Scotta, Radio 24, Sole 24 Ore. E intanto si parla anche di nuove sanzioni. Una telefonata nella notte fra il presidente americano Barack Obama e il cancelliere tedesco Angela Merkel ha rilanciato l'idea di nuove sanzioni verso la Russia. Ma l'Europa può, in modo credibile, minacciare la Russia con sanzioni per le vicende ucraine? La risposta, almeno nel breve termine, è no, secondo l'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni. Per la D, in un articolo sul Financial Times, sarebbe necessario un commissario senior per l'energia per definire una strategia comune europea. Oggi, dice il manager italiano, contiamo sulla Russia per circa un terzo del nostro gas in tutta l'Unione Europea, ma questa media maschera una dipendenza superiore al 50% per alcuni paesi, tra cui Austria, Finlandia, Grecia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto che la stabilità europea è minacciata dall'aumento dei sentimenti antirussi legati alla crisi ucraina sullo sfondo della crescita nel vecchio continente del razzismo, della xenofobia, dell'ultranazionalismo e della compiacenza verso manifestazioni neonaziste. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca, una donna di 37 anni è morta all'ospedale Martini di Torino dopo un'interruzione di gravidanza con la pillola abortiva RU486. Abbiamo in collegamento con noi il dottor Paolo Simone, che è direttore sanitario dell'ospedale Martini di Torino. Buongiorno, la saluto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, vorrei capire, dottor Simone, innanzitutto che cosa è successo, insomma, che notizie avete e che dettagli ci può dare su questa vicenda. dettagli che posso darvi è che questa paziente si è rivolta al nostro servizio per un'interruzione di gravidanza farmacologica. È stato applicato il protocollo che viene applicato anche a livello internazionale. In data 7 aprile le è stato somministrato il farmaco, in data che il mifepristone, cioè l'RU486, in data 9 aprile è stato fatto, cioè 48 ore dopo, il controllo strumentale che ha dato esito normale, è stata somministrata la candeletta vaginale con il farmaco Gemeprost, che è una prostaglandina, e dopodiché ha avuto un po' di dolore addominale, ha avuto qualche piccolo problema che però è stato controllato con farmaci. Alle 12:20 invece è insorta improvvisa dispnea, dopo che comunque l'esito di tutto l'intervento era stato... Mi scusi dottor Simone, esca dal termine medico per gentilezza, che cosa è insorto alle 12:20? Sì, difficoltà respiratorie e dolore, per cui sono state approntate tutte le misure del caso per controllare i parametri. È stato convocato l'anestesista, il cardiologo, perché si sono presentate situazioni di fibrillazione ventricolare, cioè una complicazione grave del ritmo cardiaco che può portare a morte. È stato utilizzato il palloncino Ambu per farla respirare meglio, quindi gli anestesisti hanno cercato e hanno praticato poi manovre per farle di defibrillazione. Ci sono stati 10 circa episodi di fibrillazione ventricolare. Quando questa è stata controllata, nell'ipotesi che potesse esserci un'embolia polmonare che si manifesta con dolore e con difficoltà respiratorie, è stata fatta anche la trombolisi per essere sicuri di aver fatto tutto il possibile. Poi è stata ricoverata in rianimazione verso le 2:30, ha proseguito la ventilazione, è stata intubata, è stata fatta la TAC, sono state date le amine. Purtroppo alle 22:20 sono ripresi episodi, questa volta proprio di arresto cardiocircolatorio, che sono stati trattati secondo protocollo. E a quel punto non c'è stato nulla da fare. Quello che vorrei capire da lei, prima ci prendiamo una pausa per la viabilità, quello che voglio capire da lei è se si può ipotizzare una... chiamiamola così, responsabilità, anche se il termine è sbagliato, insomma, un effetto collaterale del farmaco che può aver condotto a tutto questo, però dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La proposta di Etihad per Alitalia potrebbe arrivare lunedì, è notizia di poco fa ed è stata diffusa dopo un incontro tra il ministro dei trasporti Maurizio Lupi e l'amministratore delegato di Etihad James Hogan. Marcello Dell'Utri latitante, non si sa dove si trovi, forse in Libano, in Guinea-Bissau, nella Repubblica Dominicana. La notizia di poco fa è che un passeggero di un volo tra Roma e Beirut lo avrebbe visto su quel volo il 24 di marzo. La difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto l'agibilità politica per l'ex premier e il procuratore generale, dice l'affidamento ai servizi sociali può essere revocato se diffamerà i giudici. Nuova asta positiva per i titoli di Stato, i BTP a 3 anni collocati con un rendimento sotto l'1%. E continuiamo ad avere al telefono con noi il dottor Paolo Simone, che è direttore sanitario dell'ospedale Martini di Torino, per parlare della vicenda di una donna che, come vi abbiamo raccontato poco fa, è morta dopo l'uso della pillola abortiva, la RU486. Voglio sapere in breve, dottor Simone, se possibile, se è attribuibile questa morte ad un effetto collaterale della pillola. Allora, al momento non abbiamo nessun dato che ci possa far riferire in nessun modo una stretta correlazione tra il farmaco utilizzato e il decesso della paziente. Anche i dati che possiamo prendere dalla comunità scientifica ci dicono che il farmaco che è utilizzato in America da oltre 10 anni e in altri stati anche un po' meno, mentre da noi sa che viene utilizzato, è stato ammesso dalla fine del 2009, inizio del 2010, non abbiamo dati che ci dicano che possa esserci pericolo, ma certamente finché non abbiamo i risultati dell'autopsia non posso escludere a priori una relazione anche con il farmaco, anche se mi sembrerebbe assai difficile, quasi impossibile. La ringrazio, grazie al dottor Paolo Simone, direttore sanitario dell'ospedale Martini di Torino. Lo ringrazio per essere stato con noi. Giuseppe De Peri, legale di Marcello Dell'Utri, buongiorno. Buongiorno. Appena ricevuto, mi dicono, il comunicato della DIA, la notizia della custodia cautelare per il suo assistito, in sostanza. Sì, io le confermo che ad oggi non ho nessuna cognizione di un'ordinanza custodiale nei confronti del dottore Dell'Utri. Non mi è stata notificato nulla, leggo soltanto un comunicato stampa della DIA che in effetti dà notizia dell'emissione di questa ordinanza. Di questa ordinanza io comunque non ne ho notizia personale, né prima avrei potuto averla. Dov'è Dell'Utri? Questo lo sa soltanto lui. Io l'ho incontrato a Milano 2-3 settimane fa, gli ho parlato, poi non l'ho visto più. Perché sono circolate notizie secondo le quali sarebbe in Libano? L'ultima gliela dico, c'è un passeggero che dice di averlo incontrato il 24 marzo su un volo tra Roma e Beirut, se non erro. Guardi, sono tutte supposizioni, sono illazioni, fondate o no, non glielo so dire. No, pardon, Parigi-Beirut, mi scusi, Parigi-Beirut. Sì, non le so dire se queste notizie sono vere oppure no. Non è in grado di... Ma pensa che tornerà? Ma guardi, io le posso dire che il dottor Dell'Utri ha sicuramente dei problemi di salute che sta curando. Mi risulta che recentemente è andato in Francia per avere dei contatti con dei presidi ospedalieri che si occupano della materia cardiologica, è tornato dalla Francia. Io penso che quando ci sarà la Cassazione sicuramente opererà una riflessione su quello che dovrà fare. Cioè, nel momento nel quale ci sarà la sentenza di Cassazione, che dovrebbe arrivare martedì, me lo conferma questo avvocato? Dovrebbe essere martedì, sì. Dovrebbe essere martedì, a quel punto lui deciderà se rimanere all'estero o se tornare, in sostanza. Ammesso che sia in condizioni fisiche di poter tornare. Quindi, però, certamente l'esito della Cassazione è veramente importante. Lei pensi che già una prima volta la Corte di Cassazione ha annullato un verdetto di condanna, ritenendo che non ci fossero elementi per poter ritenere responsabile di concorso esterno il dottor Dell'Utri. Noi auspichiamo che la Cassazione possa nuovamente annullare la sentenza, perché riteniamo che la Corte d'Appello non si sia adeguata ai dettami imposti dalla Corte di Cassazione. Quindi nutriamo le nostre buone speranze. Un processo che dura da 20 anni è un processo sicuramente... Avvocato, da quello che ci ha detto mi sembra di poter desumere abbastanza chiaramente che se la Cassazione dovesse confermare la condanna, Dell'Utri non tornerà. No, questo io non gliel'ho assolutamente detto. Me l'ha fatto intuire però. No, ho poco da far intuire. Io le posso dire che intanto il dottor Dell'Utri sta curando i problemi che ha di salute. Quando ci sarà la sentenza della Cassazione prenderà le sue determinazioni. Ma che tipo di problemi sono, se si può dire, naturalmente? Guardi, questo violerei la privacy, peraltro è un fatto abbastanza notorio, però ha qualche problema di carattere cardiaco. La ringrazio, grazie a Giuseppe De Peri, legale di Marcello Dell'Utri, le auguro buona giornata. E prima di tornare invece sulla cronaca con un'operazione di questa mattina che riguarda ancora una volta sversamenti di rifiuti, e in questo caso in Puglia, ma sono rifiuti che arrivano anche dalla Campania e gestiti dalla Camorra, ci pigliamo un attimo di pausa e di respiro e parliamo di calcio, perché ci sono stati sorteggi. Giovanni Capuano, ciao, buongiorno. Sì, ci sono stati sorteggi a Nyon, noi avevamo soltanto la Juventus tra le magnifiche 8 di di Champions e di Europa League, e non è andata benissimo, Simone, perché se c'era una squadra da evitare era proprio il Benfica, squadra portoghese l'anno scorso arrivata a un passo dalla vittoria in Europa League. Ebbene, la Juventus ha pescato il Benfica. Benfica-Juventus e Juventus-Benfica, questo l'ordine delle due semifinali, quindi almeno la prima a Lisbona e la gara di ritorno a Torino, mentre l'altra semifinale di Europa League sarà il derby spagnolo tra Siviglia e Valencia, che sono due squadre dal grande passato, ma sono anche squadre che obiettivamente quest'anno hanno avuto un rendimento inferiore alle attese. Una delle due andrà in finale e troverà una tra Benfica e Juventus, che certamente sono entrate in queste semifinali come le due grandi favorite dell'Europa League. Per dirla fuori dai denti, Juventus che ha tutte le carte in regola per qualificarsi alla finale, che tra l'altro ricordo si giocherà il 14 maggio proprio allo Juventus Stadium, però se c'era un avversario ostico, soprattutto in una fase della stagione in cui la squadra di Conte, e lo ha confermato anche ieri sera, sembra stanca, questa poteva essere il Benfica. Sì. Unica parziale consolazione, sì. Ieri si è fatto male uno dei giocatori più importanti del Benfica, Edoardo Salvio, sarà fuori fino alla fine della stagione e quindi non ci sarà nemmeno nel doppio confronto con la Juve. Poi, se vuoi, ti dico della Champions. Brevissimamente sulla Champions. C'è la finale anticipata anche qui, Real Madrid contro Bayern Monaco, che sono le due squadre da tutte ritenute sin dall'inizio della stagione le più forti. Si incontrano dunque Ancelotti contro Guardiola. Potrebbe mancare Cristiano Ronaldo nella gara d'andata perché si è fatto male. E poi c'è la sfida fra Simeone e Mourinho, Atletico Madrid contro Chelsea. Chiunque vada entrerà nella finale di Lisbona con la targhetta dello sfavorito. Grazie a Giovanni Capuano, che ritroveremo oggi in tutti i convocati a partire dalle 14:05, insomma più o meno siamo là. Rocco Settimio Formoso, sindaco di Ordona, provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La chiamiamo perché oggi c'è stata un'operazione dei nuclei operativi ecologici dei carabinieri, del comando tutela per l'ambiente, poi direzione investigativa antimafia di Bari, per questioni di sversamento di rifiuti. Si parla tra l'altro del tombaggio, così si dice, dei rifiuti in un enorme cratere proprio nel suo comune, avete notato qualcosa negli ultimi anni oppure no? Perché immagino che sversamenti di questo tipo, insomma, non avvengano in un giorno solo. Negli ultimi anni c'è stato senz'altro un periodo di preoccupazione, tant'è vero che le indagini riguardanti questo problema qua sono partite già da un paio di anni, forse anche per segnalazioni da parte degli abitanti di Ordona. Ora le posso dire che nell'ultimo periodo però il problema si era acuito, e non più di 10 giorni fa, precisamente il 1° aprile, io avevo fatto una segnalazione sia al prefetto di Foggia che alla provincia, all'assessorato all'ambiente, all'ARPA e al comando dei carabinieri, con i quali comunque ho avuto sempre uno stretto contatto in questi ultimi tempi. E anzi, c'era stata anche un po' di agitazione nel paese, si è costituito nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana, un comitato di agitazione che mi sono preoccupato di portare direttamente all'attenzione, al colloquio con il prefetto, che è un colloquio che è stato da me richiesto in mattinata e che nel pomeriggio mi è stato concesso, quindi devo dare atto all'eccellenza prefetto di Foggia di questa grossa disponibilità. Ora il prefetto in realtà ci ha rassicurato che la cosa non era affatto non era affatto trascurata da parte delle istituzioni e che nell'ultimo periodo i controlli e le indagini si erano intensificate. Le ripeto però la domanda, al di là dell'ultimo, come dire, di questi ultimi giorni, no? di dieci giorni fa, e le chiedo di essere molto breve: non avevate avuto percezione che negli anni ci fosse stata appunto lo sversamento di rifiuti nel vostro comune? No, una percezione diretta no, si aveva qualche sospetto e di questo sospetto erano state naturalmente messe al corrente le autorità inquirenti. Grazie Rocco Settimio Formoso, sindaco di Ordona, per essere stato con noi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E veniamo a parlare in apertura di questa seconda parte di lavoro. Saluto Carlo Della Ringa, deputato del PD, ex sottosegretario al lavoro, docente universitario di economia politica all'Università Cattolica di Milano ed ex editorialista del Sole 24 Ore. Quante cose. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È anche relatore del decreto lavoro lei, tra l'altro, in commissione, o mi sbaglio? No, certamente. Tra l'altro sono arrivati adesso, ho visto che sono arrivati gli emendamenti, sono 376, 229 dal Movimento 5 Stelle e sono solamente 39 dal PD, bisognerà vedere che peso avranno. Direi che là la partita si gioca soprattutto al Senato. Secondo lei passerà indenne questo decreto dalle Camere? No, qualche cosa verrà modificato, mi sembra che anche lo stesso ministro accenni alla utilità di portare qualche modifica. Noi ricordiamo che si tratta di un intervento molto importante che incide in profondità sulla flessibilità del lavoro, in particolare sul contratto di apprendistato e contratto a termine. È stato emanato molto velocemente, come ormai dobbiamo abituarci alla rapidità di questo governo, e quindi qualche cosa va rivisto anche dal punto di vista tecnico. Poi sui punti più strettamente politici, qualche cosa, come dice il ministro, è possibile cambiare per contemperare un po' meglio le esigenze giuste di flessibilità delle imprese, ma anche con qualche garanzia ai lavoratori. Quindi qualche equilibrio dovrà essere trovato, ancorché le posizioni siano molto divaricate fra le forze politiche e sociali. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle oggi ha denunciato al Consiglio d'Europa l'articolo 1 del decreto legge, dice che va a violare le norme europee perché il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere alcune condizioni oggettive come data, completamento di un compito specifico o verificarsi di un evento specifico. Le sembra fondamentale? No, in molti paesi il contratto a tempo determinato può essere utilizzato dalle imprese che non sono obbligate a motivare, diciamo, le ragioni per cui lo attivano, e quindi è importante però che ci siano dei vincoli, dei limiti che l'Europa ci chiede, ma non è solo quello della causale, come si dice, della motivazione. È importante evitare che per un giovane i contratti vengano ripetuti uno dietro l'altro, che non ci siano limiti quantitativi, che non possono essere autorizzati per più di un certo periodo. Ecco, considerato che i vincoli che ci pone sono di varia natura, e dal momento che ci dicono di metterne almeno uno di questi, noi uno, anche più di uno di questi, rimane anche dopo questo decreto. Quindi, certamente qualcosa va rivisto. In una parola, ricorso dei 5 Stelle infondato secondo lei? Sì, senz'altro. Questo mi sento abbastanza sicuro, non sono un giurista, ma sentendo anche i colleghi giuristi mi assicurano che questo pericolo non c'è. Allora, molto abbastanza brevemente, però è un tema che mi interessa, in realtà è questo che, per questo che l'avevamo chiamata inizialmente, è questa intervista che ha realizzato oggi il ministro Poletti con La Stampa, nella quale parla di una possibilità di contratti di inserimento per gli over 50. È un tema che noi andiamo spesso a trattare poco ed in realtà è un tema molto importante, perché se un giovane che adesso non ha lavoro ha comunque qualche possibilità di trovarlo nel futuro, chi perde il lavoro a 50 anni chiaramente si trova in una situazione di maggiore difficoltà. La via proposta da Poletti le sembra adeguata? Sì, qualche tentativo era stato fatto in passato anche dal governo Monti di facilitare le assunzioni di lavoratori anziani, i quali, come sappiamo, dopo la riforma delle pensioni potrebbero trovarsi in difficoltà senza lavoro e distante dall'età pensionabile. Quindi qualcosa di più occorre fare anche per questi lavoratori, per incentivare le imprese o ad assumerli se hanno perso il lavoro o a tenerseli almeno fino a, diciamo così, arrivare alla pensione. Quindi è uno strumento fra i diversi che questo governo dovrà pensare per cercare di coprire quei buchi anche lunghi che possono colpire un lavoratore fra la perdita di posto di lavoro e l'accesso alla pensione. Grazie e buona giornata. Grazie a Carlo Della Ringa, che appunto è deputato del Partito Democratico, ex sottosegretario al lavoro e adesso anche relatore del decreto lavoro. Buona giornata. È già andato il momento di Daniele Biacchessi. Un sistema politico sembra in questi giorni sgretolarsi sotto i colpi dell'azione giudiziaria. Sembra di essere tornati ai tempi dell'operazione Mani Pulite nel 1992, quando un'intera classe politica trasversale veniva spazzata via in solo 2 anni dalle inchieste dei magistrati. Silvio Berlusconi, leader incontrastato del centrodestra, sarà con ogni probabilità affidato ai servizi sociali presso un'antica casa di riposo che fa parte della galassia della Fondazione Monte Tabor, oppure sarà inviato all'Arca di Sant'Apollinare di Arcore. Il suo delfino, Marcello Dell'Utri, la vera macchina organizzativa del primo trionfo di Forza Italia nel 1994, si trova da oggi latitante e fuggiasco in Libano con in tasca 2 passaporti diplomatici. Su di lui pende un ordine di custodia cautelare internazionale. All'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni sono stati sequestrati conti per 49 milioni di euro e una villa in Costa Smeralda in Sardegna. Clemente Mastella, sua moglie Sandra Lonardo e altre 16 persone andranno nei prossimi mesi a processo con l'accusa di aver trasformato il suo partito, l'Udeur, in un'associazione a delinquere. Nicola Cosentino, il re delle preferenze della Campania, si trova in carcere da giorni per essere accusato di essere il punto di riferimento dei casalesi nel mondo politico. L'ex ministro dell'economia, l'ex potente Giulio Tremonti, è costretto a patteggiare una pena di 4 mesi di reclusione per finanziamento illecito in merito alla vicenda della casa pagata dal suo ex braccio destro Marco Milanese. Certo, direte voi, sono fatti diversi, ma fa impressione oggi leggere nei vari documenti giudiziari i reati di cui sono accusati i protagonisti indiscussi di un'intera stagione politica. Associazione a delinquere, concorso in associazione mafiosa, corruzione, creazione di fondi neri, riciclaggio, favoreggiamento alla prostituzione. Reati gravissimi per gente che ha amministrato la cosa pubblica in Italia, che incontrava capi di Stato di altre nazioni, che portava responsabilità politiche e amministrative di alto livello. La magistratura, a mio avviso, non ha colpa, si è solo sostituita alla mancanza di un'autoregolamentazione della politica e continuava ad abusare del proprio potere per alimentare interessi personali. Ora servirebbe una seria riflessione generale e solo una nuova classe dirigente, estranea dai giochi e dai ricatti del passato, può farcela. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Siamo Mario Platero con America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. You've been great, the network has been great, but I'm retiring. This is really? Yep. This is true, this is, you actually did this? Yes, I did. David Letterman che annuncia il suo ritiro, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vi ho dato la notizia quando davanti al suo pubblico ha fatto questo annuncio a sorpresa. Da allora, così, c'è stata un po' una caccia al successore. Chi sarebbe stato il successore del grande David Letterman su CBS, su questa rete televisiva che ha fatto storia anche per il suo Late Show? Ebbene, la notizia l'abbiamo avuta ieri. La CBS ha fatto l'annuncio. Sarà Stephen Colbert. On my favorite website, Wikipedia, the encyclopedia where you can be an authority even if you don't know what the hell you're talking about. It has over 1 million articles, but still no entry for tonight's word. Eccolo Stephen Colbert nel suo Colbert Report sul canale via cavo Comedy Central. Lui conduce un telegiornale satirico. L'anno scorso ha vinto l'Emmy per la migliore conduzione di un programma nella notte. E vi ho fatto ascoltare questo piccolo spezzone, ve ne faccio ascoltare 2 o 3 per darvi un'idea di chi è il personaggio. E qui nel suo telegiornale affronta il tema di Wikipedia. Wikipedia la conoscete tutti o molti di voi la conoscono, è l'enciclopedia elettronica che si può consultare gratuitamente su internet, dove c'è di tutto. E se non che Colbert la prende un po' in giro, perché in effetti si trova di tutto, si trovano cose molto interessanti, anche scientifiche, però si trovano anche delle cose, diciamo, che non sono assolutamente

Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPratero. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno e anche per questa settimana di Effetto Giorno. La trasmissione torna come sempre lunedì alle 13. Ringraziamenti Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la nostra email per critiche, commenti, insomma tutto quello che volete, così come c'è anche la pagina Facebook per questo, www.facebook.com/effettogiorno. C'è il mio account Twitter, mi trovate anche là, Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra poco con GR24, appunto la trasmissione torna invece lunedì. Buon fine settimana.